Wiesz, to blanco da Moby Dick. Kapitan Hakepkę mi się gniewa i su obłonie kontrolinę. A un provisor, un falso nacido, tra le sirene montava con me, montava con me. Entra le onde, un raggio dal cielo, tra le sirene montava con me, montava con me. Sono fuggito come un veliero, un vento leggero dietro di me, e le vele rosse da Cocibenga, destinazione Mari del Sud, e l'orizzonte da Polinesia, fiori gabbiani, niente di più. Pelle di pesca, bacio del sole, fiori sorrisi, niente di più, niente di più. Sono tornato su nei cieli d'inverno, un vento leggero.